muovi e primi passi senza di me. Ora là fuori nemmeno ti domandi perché, ma dimmelo, non dirmelo, fammelo capire com'è la vita senza di me. Com'è la vita senza di me. Ora ci provo e imparo a fare a meno di te, ma ancora di nuovo mi chiedo se sia logico e se dirtelo, non dirtelo, fartelo capire com'è la vita senza di te. Com'è la vita senza di te. Dimmi che mi aspetti, anche se da tanto non mi aspetti più, che quel viso su quel treno non sei tu. Dimmi che la sera, quando è tardi, quando dici basta, me ne vado via, per rientrare passi sotto casa mia. Dimmi che domani mi cercherai, anche se davvero non lo farai. E se c'è un'altra che ti vuole, che hai, forse è il caso di non dirmelo mai. Ora da sola, se parlo dico io e non più noi. Ora da solo sei perso dentro al senno di poi. E dirselo, non dirselo, niente da capire, la vita è sempre quella che è. Continua senza te, senza me. Dimmi che mi aspetti, anche se da tanto non mi aspetti più, che quel viso su quel treno non sei tu. Dimmi che la sera, quando è tardi, quando dici basta, me ne vado via, per rientrare passi sotto casa mia. Dimmi che domani mi cercherai, anche se davvero non.